Capitolo 11. Fare amicizia. Mr. Gibson credeva che Cynthia Kirkpatrick sarebbe tornata in Inghilterra per presenziare alle nozze della madre, ma Mrs. Kirkpatrick non aveva affatto questa intenzione. Ella non era ciò che comunemente si definisce una donna determinata, ma in un modo o nell'altro ciò che non le aggradava lo evitava e ciò che le piaceva tentava di farlo o di ottenerlo. Così, durante la conversazione che aveva già introdotto in merito al quando e al come si sarebbe sposata, pur ascoltando quieta la proposta di Mr. Gibson che Molly e Cynthia facessero da damigelle d'onore, ella aveva percepito la spiacevolezza di avere la giovane figlia al proprio fianco e di vederla apparire raggiante di bellezza in confronto alla sposa sfiorita, sua madre. E quando gli ulteriori preparativi per la cerimonia si fecero più definiti, la donna ritrovò nella propria mente altre ragioni per cui Cynthia dovesse rimanersene tranquilla alla sua scuola di Boulogne. La prima sera del suo fidanzamento con Mr. Gibson, Mrs. Kirkpatrick era andata a letto, aspettandosi senz'altro di sposarsi tra breve. Lo desiderava ardentemente, perché quello l'avrebbe liberata dalla schiavitù della gestione della scuola, della gestione di una scuola che non portava profitto e in cui il numero di allievi era appena sufficiente a pagare l'affitto, le tasse, il cibo, la lavanderia e i maestri necessari. Non vedeva alcun motivo di ritornare ad Ashcombe se non quello di chiudere l'attività e impacchettare i suoi vestiti. Sperava che l'ardore di Mr. Gibson fosse tale da indurla ad affrettare le nozze e a insistere affinché lei non riprendesse le ingrate fatiche scolastiche, benché le abbandonasse ora e per sempre. Si era persino immaginata un discorso molto bello e molto appassionato che lui avrebbe potuto farle, abbastanza convincente da avere la meglio su di lei e cancellare gli scrupoli che lei sentiva di dover nutrire. Nel comunicare ai genitori delle allieve che non intendeva tornare a scuola e che loro avrebbero dovuto trovare un altro istituto per l'educazione delle loro figlie nella penultima settimana delle loro vacanze estive. Fu proprio una doccia fredda sui piani di Mrs. Kirkpatrick quando l'indomani a colazione Lady Kemnor iniziò a prendere decisioni sui preparativi e sui doveri dei due innamorati di mezza età. «Ovviamente non potete lasciare la scuola all'improvviso, Claire. Il matrimonio non si potrà celebrare prima di Natale, ma andrà bene così. Saremo tutti qui alle torri e per i bambini sarà un bel divertimento andare fino ad Ashcombe a vedere che vi sposate. Penso, temo, credo che Mr. Gibson non vorrà aspettare a lungo. Gli uomini sono così impazienti di queste circostanze». «Oh, sciocchezze! Lord Camonor vi ha raccomandata ai suoi affittuari e sono certa che non vorrebbe che si trovassero in difficoltà. Mr. Gibson lo capirà in un attimo. È un uomo intelligente, altrimenti non sarebbe il nostro medico di famiglia. Ora, cosa avete intenzione di fare con la vostra figliola? Avete deciso?» «No. Ieri sembrava esserci talmente poco tempo e quando si è agitati è difficile pensare a tutto. Cynthia ha quasi 18 anni, è abbastanza grande da iniziare a lavorare come istitutrice, se lui lo desidera, ma non credo che lo vorrà. È così gentile e generoso. Bene, devo darvi il tempo di sistemare alcune delle vostre questioni oggi. Non perdetevi in smancerie, siete troppo vecchi per questo. Trovate insieme una risoluzione chiara. Alla lunga servirà alla vostra felicità». Giunsero dunque a un accordo preciso a proposito di un paio di aspetti. Con sgomento, Mrs. Kirkpatrick scoprì che Mr. Gibson non era più intenzionato di Lady Kemnor a farle rompere il suo contratto con i genitori delle allieve. Benché egli fosse veramente perplesso in merito a cosa sarebbe stato di Molly, finché non si fosse trovata sotto la protezione della sua nuova moglie nella sua nuova casa, e sebbene le preoccupazioni domestiche lo tormentassero ogni giorno di più, era persona troppo onorevole per pensare di convincere Mrs. Kirkpatrick ad abbandonare la scuola, per amor suo, anche una sola settimana prima del dovuto. Non si accorse neppure di come sarebbe stato facile convincerla, nonostante tutte le sue seducenti moine. Lei riuscì appena a farlo sentire impaziente di far celebrare le nozze a San Michele. «Non posso quasi dire quanto sarò di sollievo e di conforto per me, Hyacinth, quando sarai mia moglie, la padrona della mia casa, la madre e la protettrice della mia piccola Molly. Ma non intendo in alcun modo interferire con i tuoi impegni precedenti. Non sarebbe giusto». «Grazie, amor mio. Come siete buono. Tanti uomini penserebbero solo ai propri desideri e interessi. Sono certa che i genitori delle mie allieve vi ammireranno, si sorprenderanno nell'apprendere della vostra considerazione per i loro problemi. Allora non dirglielo. Odio essere ammirato. Perché non dici loro che è un tuo desiderio mantenere la scuola finché non avranno avuto il tempo di cercarne un'altra? Perché non è così? Ribatte lei rischiando tutto. Non vedo l'ora di rendervi felice. Voglio fare della vostra casa un luogo di pace e di comodità per voi e desidero così tanto coccolare la vostra dolce Molly come spero di poter fare quando diventerò sua madre. Non posso attribuirmi delle virtù che non mi appartengono. Se dovessi dire la mia, parlerei così. Brava gente, trovate una scuola per le vostre figlie entro San Michele, perché dopo quel giorno io devo andare a portare felicità ad altre persone. Non posso pensare alle vostre lunghe cavalcate novembrine, a voi che ritornate a casa fradicio di notte senza nessuno che si occupi di voi. Se potessi decidere io, avvertirei i genitori di portar via le figlie dalle cure di una donna il cui cuore sarebbe assente. Però non posso acconsentire a una data precedente a San Michele. Non sarebbe né giusto né onesto e sono certa che non insisterete. Siete troppo buono. Beh, se pensi che essi riterrebbero che ci siamo comportati bene nei loro confronti, che sia San Michele con tutto il mio cuore. Che dice Lady Kemnor? Le ho detto che temevo che voi non avreste gradito aspettare a causa dei vostri problemi con i domestici e per via di Molly. Sarebbe così bello iniziare il mio rapporto con lei il prima possibile. Certamente. E così sarà. Povera bimba. Ho paura che la notizia del mio fidanzamento l'abbia alquanto turbata. Anche Cinzia ne sarà impressionata, disse Mrs. Kirkpatrick, che non voleva che sua figlia sembrasse inferiore a Mr. Gibson in quanto ad affetto e a sensibilità. La faremo venire per il matrimonio. Lei e Molly saranno damigelle, dichiarò Mr. Gibson con il calore incauto del suo cuore. Questo progetto non andava a genio a Mrs. Kirkpatrick, ma ella pensò fosse meglio non opporsi fino a che non avesse trovato una scusa plausibile da presentare e forse qualche altra ragione si sarebbe in futuro contrapposta naturalmente all'idea. Perciò, in quel momento si limitò a sorridere e a stringere dolcemente la mano che teneva nella sua. Ci si può domandare chi fra Mrs. Kirkpatrick e Molly desiderasse di più che la giornata da trascorrere insieme ai lettori arrivasse alla fine. Mrs. Kirkpatrick era piuttosto stufa delle ragazze come categoria. Tutte le difficoltà della sua esistenza erano state in qualche modo connesse alle adolescenti. Era molto giovane quando era diventata un'istitutrice e nella prima casa dove aveva lavorato aveva avuto la peggio nelle battaglie con le sue allieve. La sua eleganza di aspetto, di modi e i suoi talenti, più che il suo carattere e le sue conoscenze, avevano reso più facile per lei che per la maggioranza ottenere delle buone posizioni. In alcuni casi era stata assolutamente vezzeggiata, eppure non faceva che incontrare ragazzine cattivo testarde o troppo coscienziose, o dai giudizi severi o curiosi o impertinenti. E ancora, prima che Cinzia nascesse, ella aveva desiderato un maschio, ritenendo possibile che in caso di morte di 3 o 4 parenti, egli diventasse baronetto. E invece di un figlio, eccola, una bambina. Ciò non di meno, nonostante la sua astratta ostilità per le ragazze, piaghe della sua vita, e la sua avversione non era certo diminuita dal fatto di aver intrapreso la direzione di una scuola per giovani signore ad Ashcombe. Ella intendeva davvero essere il più gentile possibile con la sua nuova figliastra, che ricordava principalmente come una bambina sonnolenta dai capelli neri, nei cui occhi aveva letto ammirazione per lei. Mrs. Kirkpatrick accettò Mr. Gibson soprattutto perché era stanca di guadagnarsi da vivere da sola, ma le piaceva come persona, anzi, lo amava persino, nel suo modo fiacco, aveva intenzione di essere buono con la figliola, sebbene sapesse che le sarebbe stato più facile essere buona con un figlio maschio. Molly si faceva forza a sua volta. «Sarò come Harriet, penserò agli altri, non penserò a me stessa», continuò a ripetersi lungo tutta la strada verso le torri. Ma non c'era egoismo nel desiderio che la giornata terminasse e lei lo voleva con tutto il cuore. Mrs. Hamley la mandò là con la sua carrozza che doveva aspettarla e ricondurla indietro la sera. Mrs. Hamley voleva che Molly facesse una bella impressione e prima che uscisse la mandò a chiamare perché si facesse guardare. Non mettere l'abito di seta. La tua mussolina bianca sarà più bella, mia cara. Non la seta? È praticamente nuova. L'ho presa per venire qui. Eppure penso che la mussola bianca ti stia meglio. Tutto fuorché quell'orrenda seta quadri. Era ciò che pensava Mrs. Hamley e grazie a lei Molly partì per le torri con un aspetto, è vero, un pochino bizzarro, ma accuratamente signorile, benché fuori moda. Il padre doveva incontrarla lì, ma era stato trattenuto ed ella dovette affrontare Mrs. Kirkpatrick da sola, con vividissimo nella mente, come se fosse stato ieri, il ricordo del suo ultimo miserevole giorno alle torri. Mrs. Kirkpatrick fu sommamente carezzevole. Tenne la mano di Molly nella propria, dopo i primi saluti, mentre sedevano insieme in biblioteca. Continuava ad accarezzarla di tanto in tanto e ad emettere suoni vibranti come fusa di amorevole gratificazione mentre scrutava il viso che arrossiva. «Che occhi! Così simili a quelli di tuo padre! Quanto ci vorremmo bene, vero cara? Per amor suo!» «Ci proverò», asserì Molly ardimentosa, dopodiché non poté finire la frase. «E hai proprio gli stessi bei riccioli neri», osservò Mrs. Kirkpatrick, sollevando dolcemente uno dei boccoli di Molly dalla sua tempia bianca. «Quelli di papà stanno ingrigendo», commentò Molly. «Davvero? Non me ne sono accorta! Non lo noterò mai. Per me sarà sempre il più avvenente degli uomini». Mr. Gibson era davvero un uomo molto affascinante e a Molly il complimento piacque, ma non poté fare a meno di dire «Però invecchierà e i suoi capelli diventeranno grigi». «Penso sarà altrettanto bello, ma non sarà come un giovanotto». «Sarà così, amore. Lui sarà sempre bello. Alcune persone lo sono sempre. E ti vuole tanto bene, mia cara». Molly arrossì con veemenza. Non aveva bisogno di una rassicurazione sull'affetto di suo padre da questa estranea. Non poteva evitare di arrabbiarsi. Tutto ciò che poteva fare era restare in silenzio. «Non sai come parla di te, il suo piccolo tesoro ti chiama. A volte sono persino gelosa». Molly ritrasse la mano e il suo cuore si indurì. Questi discorsi erano stonati per lei, ma strinse i denti e tentò di essere buona. «Dobbiamo renderlo tanto felice. Temo che a casa ci siano mille cose che gli danno fastidio, ma ora noi ci occuperemo di ognuna di loro. Devi dirmi», vedendo la nube negli occhi di Molly, «cosa gli piace e cosa gli dispiace, perché naturalmente tu lo sai». Il viso di Molly si rischiarò un poco. Ovvio che lo sapeva. Non l'aveva osservato e amato tanto a lungo senza credere di capirlo meglio di chiunque altro, anche se, come fosse accaduto che lui avesse iniziato ad ammirare Mrs. Kirkpatrick al punto di volerla sposare, era un problema irrisolto che lei inconsapevolmente aveva catalogato come inspiegabile. Mrs. Kirkpatrick proseguì. «Tutti gli uomini hanno le loro passioni e le loro idiosincrasie, anche i più saggi. Ho conosciuto dei gentiluomini che si innervosivano oltre misura per delle vere sciocchezze. Una porta lasciata aperta, del tè rovesciato sul piattino, uno scialle messo storto, beh», continuò abbassando la voce. «So di una casa in cui Lord Hollingford non verrà mai più invitato perché non si è pulito le scarpe su entrambi i tappetini dell'ingresso. Ora, tu devi dirmi qual è la cosa che dispiace di più a tuo padre in questo modo maniacale e io mi occuperò di evitarla. Devi essere la mia piccola amica e aiutarmi a compiacerlo. Sarà una tale gioia per me accontentarlo nelle sue piccole voglie. E in quanto al mio abbigliamento, poi, quali sono i suoi colori preferiti? Voglio fare tutto ciò che posso per incontrare la sua approvazione». Molly fu gratificata da tutto ciò e iniziò a pensare che davvero, dopo tutto, suo padre aveva fatto una buona scelta per sé e che se lei avesse potuto assisterlo sulla strada verso una nuova felicità, l'avrebbe dovuto fare. Perciò tentò con molta attenzione di farsi venire in mente i desideri e le abitudini di Mr. Gibson, di riflettere su cosa lo infastidisse di più in casa. «Credo», affermò, «che per tanti aspetti papà non sia esigente. Ma immagino che il fatto di non pranzare con puntualità, di non trovare il piatto a tavola quando rientra, lo renda nervoso più di ogni altra cosa. Vedete, spesso ha fatto un lungo giro di visite e ce n'è uno lungo uguale ad attenderlo. E lui ha solo mezz'ora, a volte un quarto d'ora per mangiare». «Grazie, amore mio. La puntualità, sì, È una gran cosa in una famiglia. E ciò che ho tentato di inculcare alle mie signorine ad Ashcombe. Non c'è da meravigliarsi che Mr. Gibson si infastidisca se non trova il pranzo pronto, lui che lavora così duramente. A papà non interessa cosa si mangi, basta che sia pronto. Prenderebbe pane e formaggio se la cuoca glielo mandasse al posto del pranzo. Pane e formaggio? Mr. Gibson mangia formaggio? Sì, gli piace un sacco, confermò Molly, innocente. L'ho visto mangiare formaggio cotto quando era troppo stanco per aver voglia di altro. Ma mia cara, dobbiamo cambiare tutto. Non gradirei il pensiero di tuo padre che mangia formaggio. È una cosa così puzzolente e grossolana. Dobbiamo procurargli una cuoca che gli sappia preparare un omelette o qualcosa di elegante. Il formaggio va bene solo per la cucina. A papà piace un sacco, ripete Molly. Ma noi lo guariremo. Non sopporto l'odore del formaggio e sono sicura che gli dispiacerebbe darmi un fastidio. Molly tacque. Scoprì che non era bene essere troppo dettagliata in merito a ciò che suo padre gradiva o non gradiva. Meglio lasciare che Mrs. Kirkpatrick se lo scoprisse da sola. Fu una pausa imbarazzante. Ciascuna cercava qualcosa di accomodante da dire. Fu Molly alla fine a parlare. Vi prego, vorrei tanto sapere qualcosa di Cinzia, vostra figlia. Sì, chiamala Cinzia. È un bel nome, vero? Cinzia Kirkpatrick. Non così bello come il mio da ragazza, Hyacinth Clare. La gente diceva che mi stava così bene. Devo mostrarti un acrostico che ne fece un gentiluomo. Era tenente del 53esimo. Prevedo che ne avremo di cose da raccontarci. E su Cinzia? Oh sì, la cara Cinzia. Cosa vuoi sapere, mia cara? Papà dice che verrà a vivere con noi. Quando arriverà? Oh, non è dolce da parte del tuo gentile papà. Non pensavo ad altro se non che a Cinzia iniziasse a lavorare come istitutrice una volta finiti gli studi. È stata educata per questo e ha grandi vantaggi. Ma il caro e buon Mr. Gibson non ne vuole sapere. Ha detto ieri che lei deve venire a stare da noi quando lascerà la scuola. Quando sarà? È andata lì per starci 2 anni. Non credo le permetteranno di venire via prima della prossima estate. Insegna inglese e impara il francese. L'estate prossima tornerà a casa e allora non saremo un felice quartetto? Lo spero, disse Molly. Ma verrà al matrimonio, vero? Aggiunse timidamente, non sapendo quanto quell'allusione alle nozze potesse essere gradita a Mrs. Kirkpatrick. Tuo padre ha implorato che venga. Ma dobbiamo pensarci ancora un po' prima di decidere. Il viaggio è una spesa notevole. Vi assomiglia? Vorrei tanto vederla. È molto bella, dicono. I suoi colori sono chiari. Forse è simile a come ero io. Ma io preferisco il tipo di bellezza straniera con i capelli scuri. Ecco qua. Stava toccando i capelli di Molly e la guardava con un'espressione di sentimentale rimembranza. Cinzia. È tanto intelligente e istruita? Chiese Molly, un po' timorosa che la risposta potesse allontanare di molto Miss Kirkpatrick da lei. Deve! Ho pagato un sacco di soldi perché avessi i migliori insegnanti. Ma la vedrai tra non molto e ora temo che dobbiamo andare da Lady Kemnor. È stato bello averti tutta per me, ma so che ormai Lady Kemnor ci starà aspettando ed era proprio curiosa di vederti. La mia futura figlia ti definisce. Molly seguì Mrs. Kirkpatrick in sala dove sedeva Lady Kemnor, che era un po' infastidita perché Claire non aveva capito istintivamente che lei aveva concluso la sua toilette prima del solito e così non aveva portato Molly Gibson all'ispezione un quarto d'ora in anticipo. Ogni piccolo dettaglio è un evento nella vita di un convalescente e se poco prima Molly avrebbe ricevuto una condiscendente approvazione, ora dovette affrontare delle critiche. Del carattere di Lady Kemnor come persona non sapeva niente, sapeva solo di stare andando a vedere e a farsi vedere da una vera contessa, anzi di più, da la contessa di Hollingford. Mrs. Kirkpatrick l'accompagnò per mano al cospetto di Lady Kemnor e la presentò dicendo: «La mia cara figliola, Lady Kemnor. Ora, Claire, non voglio sentire sciocchezze. Non è ancora vostra figlia e forse non lo sarà mai. Credo che un terzo dei fidanzamenti di cui sono venuta a conoscenza non sia mai arrivato alle nozze. Miss Gibson, Sono molto lieta di incontrarvi, per rispetto a vostro padre. Quando vi conoscerò meglio, spero che ne sarò lieta per rispetto a voi. Molly si augurò con tutto il cuore di non dover mai essere conosciuta meglio dalla signora dall'espressione austera che sedeva così eretta in una poltrona fatta per sdraiarsi, motivo per cui dunque la sua posizione rigida faceva ancora più impressione. Lady Kemmler, per fortuna, interpretò il silenzio di Molly come arrendevole umiltà e continuò a parlare dopo un'ulteriore breve pausa di ispezione. «Sì, sì, mi piace il sospetto, Claire. Potrete farne qualcosa. Sarà un grande vantaggio per voi, mia cara, avere sempre intorno una signora che ha cresciuto tante giovani di rango e proprio nel momento in cui state diventando adulta». «Ecco cosa vi dico, Claire», colpita da un pensiero subitaneo. «Voi e lei dovete conoscervi meglio. Al momento non sapete nulla l'una dell'altra. Non vi sposerete fino a Natale e cosa sarebbe meglio se non farla tornare ad Ashcombe insieme a voi? Starebbe costantemente con voi e godrebbe del vantaggio della compagnia delle vostre giovani allieve, che sarebbe una gran cosa per una figlia unica. È un progetto eccellente. Sono molto contenta di averci pensato». Ora, sarebbe difficile dire quale tra le due astanti fosse più sgomenta all'idea che si era impadronita di Lady Kemmler. Mrs. Kirkpatrick non aveva alcuna voglia di farsi carico di una figliastra prima del tempo. Se Molly fosse diventata la sua coinquilina, addio a tante piccole usuali economie e un ancor più serio addio a tante piccole indulgenze, che di per sé erano piuttosto innocenti, ma che la vita precedente di Mrs. Kirkpatrick l'aveva abituata a considerare come peccati da nascondere. Il delizioso romanzo della biblioteca circolante di Ashcombe, con le orecchie sulle pagine sporche che lei voltava usando un paio di forbici, la chaise longue che usava a casa propria, per quanto in presenza di Lady Kemmler sedesse dritta e impettita, il raffinato bocconcino minuto e saporito che si godeva nelle sue cene solitarie. Tutte queste e altre similmente piacevoli cosucce sarebbero dovute sparire se Molly fosse divenuta una sua allieva, pensionante o visitatrice, come aveva programmato Lady Kemmler. Su una o due cose Claire era istintivamente risoluta: sposarsi a San Michele e non avere Molly ad Ashcombe. Ma sorrise con tutta la dolcezza di cui fu capace, come se la proposta fosse la più invitante del mondo, mentre contemporaneamente le sue povere meningi si spremevano alla ricerca di motivi o di scuse cui avrebbe dovuto ricorrere in un momento futuro. Molly però le risparmiò la fatica. Ci si può chiedere quale delle tre rimanesse più sorpresa dalle parole che uscirono d'un tratto dalle sue labbra. Non aveva intenzione di dirle, ma il suo cuore era gonfio e quasi prima di rendersi conto del suo pensiero o di se stessa affermare: «Non credo che sarebbe bene, proprio no. Voglio dire, Milady, che a me dispiacerebbe tantissimo. Mi porterebbe via da papà proprio in questi ultimi pochi mesi. Apprezzerò», proseguì con gli occhi pieni di lacrime e voltandosi verso Mrs. Kirkpatrick, mise la mano in quella della matrigna con il gesto più dolce e fiducioso. «Proverò seriamente a volervi bene e a fare tutto ciò che vi renda felice, ma non dovete portarmi via da papà proprio in quest'ultimo periodo di tempo in cui posso averlo per me». Mrs. Kirkpatrick vezzeggiò la mano posata nella sua e fu grata alla ragazza per la sua dichiarata opposizione al progetto di Lady Kemmler. Claire, però, era del tutto restia a sostenere Molly con le proprie parole fino a che Lady Kemmler non avesse parlato, dandole l'imbeccata. Ma c'era qualcosa nel discorsetto di Molly o nei suoi modi schietti che fece divertire invece che irritare Lady Kemmler nel suo presente umore. Forse era stufa della sofficità in cui si era trovata avvolta per così tanti giorni. Inforcò gli occhiali e le guardò entrambe prima di parlare, poi disse: «Parola mia, giovanetta. Beh, Claire, ne avrete di lavoro da fare. Non che ciò che dice manchi di verità. Deve essere molto spiacevole per una ragazza della sua età ritrovarsi con una matrigna che si intromette tra lei e suo padre, quali che siano i vantaggi di cui godrà alla lunga». Molly si sentì quasi di poter fare amicizia con la vecchia rigida contessa per aver compreso chiaramente che il progetto proposto fosse una sofferenza, ma temeva, nel suo nuovo desiderio di pensare agli altri, che Mrs. Kirkpatrick ne fosse rimasta ferita. Non avrebbe dovuto avere paura dei segni esteriori, perché le labbra belle e rosate della signora erano ancora in sorriso e la tenera carezza della sua mano non si era arrestata. Più guardava Molly, più Lady Kemnor si interessava a lei e il suo sguardo era ben fermo dietro le lenti cerchiate d'oro. Iniziò una sorta di catechismo, una sequela di domande molto dirette che una donna inferiore al rango di contessa si sarebbe fatta scrupoli a porre, ma che non avevano intenzioni scortesi. «Avete 16 anni, non è così?» «No, 17. Il mio compleanno è stato 3 settimane fa. Direi che è praticamente la stessa cosa. Siete mai stata a scuola?» «No, mai. Miss Eyre mi ha insegnato tutto ciò che so.» «Miss Eyre era la vostra istitutrice, immagino. Non avrei pensato che vostro padre potesse permettersi un'istitutrice, ma naturalmente lui conoscerà i suoi conti meglio di me.» «Certo, milady», replicò Molly un po' impermalita da questa osservazione sul discernimento di suo padre. «Dite certo, come se fosse assodato che tutti conoscono i propri affari meglio degli altri. Siete molto giovane, Miss Gibson, molto. Ne saprete di più alla mia età. E suppongo che abbiate studiato musica, l'uso dei globi, il francese e le solite cose, visto che avete avuto un'istitutrice.» «Non ho mai sentito una sciocchezza simile», proseguì alzandosi di scatto. «Una figlia unica. Se ci fossero state una mezza dozzina di ragazze, avrebbe potuto aver senso.» Molly non rispose, ma rimase in silenzio con grande sforzo. Mrs. Kirkpatrick le accarezzava la mano con maggiore insistenza che mai, sperando così di comunicare una dose sufficiente di simpatia da impedirle di dire qualcosa di irragionevole. Ma le carezze avevano stancato Molly e le avevano dato sui nervi. Ritrasse la mano da quella di Mrs. Kirkpatrick con un lieve gesto di impazienza. Fu forse provvidenziale per la pace generale che proprio in quel momento fosse annunciato Mr. Gibson. È piuttosto bizzarro vedere come l'ingresso di un rappresentante del sesso opposto in un gruppo di uomini o di donne calmi le disarmonie e le stizze. Fu proprio quello il caso. All'entrata di Mr. Gibson, Milady si tolse gli occhiali e la sua fronte si distese. Mrs. Kirkpatrick riuscì a farsi venire un rossore molto confacente e per quanto riguarda Molly il suo viso si illuminò di gioia e i denti candidi e le belle fossette spuntarono come il sole su un panorama. Ovviamente dopo i primi convenevoli Milady doveva avere un colloquio privato con il dottore e Molly e la sua futura matrigna vagarono nei giardini con le braccia reciprocamente allacciate alla vita, o mano nella mano come due bimbe nel bosco. Mrs. Kirkpatrick aveva parte attiva in queste moine e Molly era passiva, sentendosi timida e strana. La caratterizzava infatti quella particolare ritrosa modestia che mette a disagio nel ricevere carezze da una persona verso la quale il cuore non è attratto da un'immediata accoglienza. Arrivò dunque il pranzo. Lady Kemnor lo consumò in tranquillità nella propria stanza, della quale era tuttora prigioniera. Un paio di volte durante il pasto, la mente di Molly fu attraversata dall'idea che a suo padre dispiacesse il proprio ruolo di innamorato di mezza età, che i discorsi affettuosi e le allusioni di Mrs. Kirkpatrick rendevano così evidente ai camerieri. Egli tentò di bandire qualunque sfumatura di sentimentalismo rosa dalla conversazione e di limitarsi ai dati di fatto. E quando Mrs. Kirkpatrick perseverava nel soffermarsi su cose che riguardavano la futura relazione fra le parti in causa, egli insisteva nel considerarle nel modo più obiettivo. E questo continuò fin quando i domestici uscirono dalla stanza. Molly era solita sentire da Betty un vecchio proverbio che le ricorreva in testa e la faceva sentire a disagio. 2 è una compagnia, 3 è una folla. Ma lei dove poteva andare in quella casa sconosciuta? Cosa avrebbe dovuto fare? Fu ridestata da questo momento di interrogativi e di distrazione dalle parole di suo padre. «Cosa pensi di questa idea di Lady Kemnor? Dice che ti ha consigliato di prendere Molly con te ad Ashcombe fino al matrimonio.» Mrs. Kirkpatrick si fece scura in volto. «Se solo Molly fosse stata così brava da dire la sua, ancora una volta, come aveva fatto di fronte a Lady Kemnor?» Ma se la proposta era avanzata dal padre, per la figlia avrebbe avuto un valore diverso di quella suggerita da un'estranea, per quanto di alto rango. Molly non disse nulla, impallidì solamente e apparve triste e ansiosa. Mrs. Kirkpatrick dovette prendere la parola. «Sarebbe un piano magnifico, solo che, non sappiamo perché preferiamo altrimenti, vero amore? E non lo diremo a papà, per paura che si monti la testa, no? Penso di dover lasciare con voi, caro Mr. Gibson, per un tête-à-tête di queste ultime settimane. Sarebbe crudele portarla via. Ma lo sai, mia cara, ti ho parlato della ragione per cui non è bene che Molly stia a casa al momento, ribatté Mr. Gibson con convinzione. Infatti, più conosceva la sua futura moglie, più sentiva necessario ricordare che, nonostante tutte le sue eccentricità, lei sarebbe stata capace di mettersi fra Molly e tutti gli incidenti simili a quello che di recente era capitato con Mr. Cox. Tanto che uno dei buoni motivi per cui aveva compiuto quel passo era sempre presente in lui, mentre era scivolato via dalla superficie liscia come uno specchio della mente di Mrs. Kirkpatrick senza lasciar traccia alcuna. Ma ora lei se ne ricordò, vedendo il volto ansioso di Mr. Gibson.